America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. When I made the pleasure of Mr. Gatsby's acquaintance, I discovered a man of fine breeding. Very interesting. Everything all right? Oh, yes. Love is blind. The Great Gatsby, grande classico di Scott Fitzgerald. Beh, c'è un remake del film che fu anni fa, nel 1974, con Robert Redford, e questa volta il protagonista è Leo DiCaprio con Carey Mulligan. Un grande film che è ambientato a Long Island. Brooklyn è la punta più vicina a Manhattan da Long Island, questa grande isola che poi si espande verso nord-nord-est, quasi fino a toccare il Massachusetts. Il libro di Scott Fitzgerald, The Great Gatsby, scritto nel 25, ma ambientato nel 1922, gli anni ruggenti, gli anni pre-crisi, pre-29, e il Great Gatsby, questo signor Gatsby, è un riccone americano che decide di conquistare la società di New York, si compra una meravigliosa casa sul mare, fa delle feste spettacolari e cerca di affermarsi. Allora, vi parlo di questo film non soltanto perché è una grande primizia, una novità in arrivo, ma perché ho avuto un piccolo assaggio di atmosfera alla Great Gatsby domenica, quando sono andato a vedere, a cercare di vedere da vicino, un grande ricevimento per Mitt Romney a casa del miliardario americano David Koch, uno dei grandi protagonisti dell'economia americana, uno dei più importanti, diciamo, privati attivi in politica. Ha creato per esempio il Cato Institute e si dice che con il fratello sia stato uno dei grandi sostenitori del movimento Tea Party. E dunque su Long Island, davanti a questa villa meravigliosa, cancelli aperti, qualche agente segreto, lungo il mare di Shinnecock Bay, questa grande baia divisa da una striscia di terra dove c'era la villa e dall'altra parte l'oceano. Ecco, questo era l'ambiente dove una settantina di miliardari americani si sono riuniti, contribuendo ognuno $50,000 per i forzieri di Mitt Romney. Ma Mitt Romney non si è fermato soltanto alla villa di David Koch, ma è andato anche prima alla villa di Ron Perlman, che è poco più in là, Georgica Beach, un altro dei posti meravigliosi degli Hampton, che sono un po' la località dove un Great Gatsby moderno avrebbe comprato, acquistato la sua villa sull'oceano per alcune decine di milioni di dollari. Ecco, in questo suo passaggio su Long Island, Mitt Romney, in tempo di crisi, e sottolineiamolo perché tutti diciamo che siamo in crisi, ha raccolto in un fine settimana 4 milioni di dollari. La corsa elettorale si gioca molto sul finanziamento della campagna elettorale. Abbiamo avuto ieri i numeri della raccolta dei due candidati per giugno, e Romney, che ha dietro di sé l'establishment, ha dietro di sé i grandi imprenditori americani, ha raccolto 106 milioni di dollari in un mese. Barack Obama ne ha raccolti soltanto, ma metterei delle virgolette virtuali, 71 milioni di dollari. Questa è una delle più importanti dimensioni della battaglia elettorale, che avrà come passo intermedio le convention alla fine di agosto e i primi di settembre, e poi lo scontro alle urne il 6 novembre. Naturalmente c'è l'altro aspetto, e cioè quello delle tematiche, quello della sfida politica, della sfida per conquistare la classe media e il centro. Republicans say they don't want to raise taxes on the middle class. I don't want to raise taxes on the middle class. So we should all agree to extend the tax cuts for the middle class. Let's agree to do what we agree on. La classe media, avete sentito Barack Obama, il presidente americano, ieri ha fatto un annuncio che ha preso in contropiede i repubblicani. Il presidente dice, nella breve frase che vi ho fatto ascoltare, cioè, beh, i repubblicani dicono che vogliono aiutare la classe media. Bene, anch'io voglio aiutare la classe media, tutti vogliamo aiutare la classe media, allora mettiamoci d'accordo, perché il modo per aiutare la classe media c'è: manteniamo invariate le aliquote fiscali e dunque manteniamo invariati i tagli alle tasse che aveva introdotto il presidente George W. Bush per il 98% degli americani e per il 97% delle aziende, delle piccole aziende americane. I ricchi dovranno pagare le tasse, dovranno avere un aumento di tasse. La provocazione di Obama naturalmente ha colpito nel segno, perché ieri sera e questa mattina anche nei programmi televisivi non si parlava d'altro. Is this an area where Republicans should take what you can get and then fight about the other stuff later? It didn't seem logical to President Obama during the Obamacare debate when Republicans said, look. Questo era su CNN e Halle Barber, un ex governatore repubblicano, che viene interpellato su questa proposta di Barack Obama, una proposta che imbarazza ovviamente i repubblicani. Attenzione, perché i repubblicani alla Camera, a loro volta, fra poco vogliono portare un progetto di legge che consentirà di prolungare tutti i tagli fiscali decisi dall'amministrazione Bush 10 anni fa, che sono in scadenza alla fine dell'anno, e quindi di prolungarli per tutti e dunque anche per i più ricchi. Per Halle Barber naturalmente la partita è facile, perché dice intanto non credo che ci siano tutte queste imprese che possono beneficiare di questa agevolazione che propone Barack Obama, e poi dice alla fine questo presidente è un presidente che ha fatto il più grosso, colossale aumento fiscale della storia sulla classe media, perché ha imposto la riforma sanitaria che, come ha sentenziato la Corte Suprema, alla fine impone una tassa. La polemica dunque infuria. Mitt Romney ha risposto immediatamente alla provocazione di Obama. Sentiamolo. The president, our current president, is intent on raising tax rates, particularly for small business. And so when he wants to raise the tax rate from 35% to 40%, that will impact a lot of small businesses and probably lead to some businesses having to lay people off. Mitt Romney subito all'attacco, perché dice l'economia è in difficoltà, l'occupazione non cresce, e questo presidente che cosa fa? Decide di aumentare le tasse. Quindi Mitt Romney punta sull'aumento di tasse che implicitamente Obama prevede, vuole, chiede sulle classi più ricche degli americani, su quell'1%, su quel 2% che ha redditi superiori ai $250,000 l'anno, perché la proposta di Obama è quella di dire fino ai $250,000 l'anno di reddito le tasse restano le stesse, oltre quel livello, oltre quella cifra si dovranno aumentare le aliquote. Mitt Romney parte all'attacco, direi in modo piuttosto deciso, dicendo questo presidente continua a non imparare la lezione, qui in un momento di difficoltà non possiamo aumentare le tasse e dunque strangolare l'economia. Un dibattito molto attuale anche per noi in Europa, proprio in questi giorni. Come si risolve questa situazione? Tax reform is something we've all supported. Simplification and fairness must be part of our tax code. And here is a place where we may not be able to get that entire job done. Nancy Pelosi, l'ex presidente democratica alla Camera, una possibile soluzione ce l'ha data. Allora, intanto la premessa e che qui per ora sono soltanto dei posizionamenti politici, perché i repubblicani sanno che non potranno mai passare alla loro proposta di legge, perché c'è una maggioranza democratica al Senato che non approverà mai la loro proposta. Barack Obama a sua volta sa che la sua proposta non sarà mai approvata, perché la maggioranza repubblicana alla Camera la boccerà. Però ci si posiziona per la conquista, come vi dicevo prima, della classe media, ci si posiziona per poter rivendicare ciascuno l'ottusità degli altri. I repubblicani contro Obama, che non riesce a capire, a definire quali sono i bisogni dell'economia, degli investitori e degli imprenditori che devono poter avere agevolazioni fiscali per investire, e i democratici che accusano di ottusità i repubblicani, che dice ma insomma, come ha detto lo stesso Obama in una parte del suo discorso che ha pronunciato ieri alla Casa Bianca, sappiamo che gli aumenti marginali di reddito per i più ricchi non si traducono in spese al consumo e dunque non aiutano l'economia. Nancy Pelosi, che ho appena fatto ascoltare, dice la nostra proposta potrebbe essere quella di aumentare le tasse soltanto per chi ha redditi superiori al $1,000,000. Allora, visto che a breve non se ne farà nulla, visto che si dovranno aspettare le elezioni, il compromesso che comincia a prendere forma è quello di identificare delle aliquote magari molto più elevate, di mettersi d'accordo sulle misure di austerità, aumento di tasse, tagli delle spese, fra il 7 novembre, subito dopo le elezioni, e la fine dell'anno. Io credo che quella sarà la soluzione, dove poi si troverà un compromesso. Nel frattempo, molta retorica, attacchi reciproci, le tasse, l'economia, l'occupazione avranno un ruolo centrale, la conquista della classe media resta l'obiettivo per entrambi i candidati, e credo che avremo molte giornate come quella di ieri, anche se quella di ieri di sicuro ha segnato una svolta in queste elezioni. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, chiocciola Mario Platero, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, nonostante si siano ormai sciolti, i White Stripes non la smettono di fare notizia. L'ex gruppo di Jack White, pensate, ha distribuito un ultimo album, o meglio, dovremmo dire il primo vero disco della band, perché è la registrazione del primo concerto live dei White Stripes nell'estate del 97. La dedico a loro e a Jack White, perché Jack White appare con una sua canzone proprio in Great Gatsby. The White Stripes, Screwdriver. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!